Iram or Asaraya for una pratica di metta. The four traditional blessings are: may you be safe, well and happy. Le benedizioni tradizionali sono che tu possa essere al sicuro, stare in una salute felice. And may you live contented in harmony with the world. Tu possa vivere soddisfatto in armonia con il mondo. So you can repeat these to yourselves. Potete ripetere queste quattro benedizioni a voi stessi. Or choose your own blessings. Oppure potete scegliere le vostre benedizioni. Or keep it the same. Or keep it the same. Keep the blessings the same. Don't change the blessings. Ricordate mantenere sempre le stesse benedizioni, senza cambiarle. So let's bring to mind our benefactors, people who've helped us in our lives. Quindi portiamo alla nostra mente i nostri benefattori, le persone che ci hanno aiutato nella vita. Bring to mind those who are near and dear to us. Portate alla vostra mente le persone vicine, le persone care. Bring to my friends, people at work, whomever we wish. Portate alla mente gli amici, le persone al lavoro o chiunque vogliamo. Bringing to mind neutral people, people we see but don't know, like our neighbors. Facciamo alla mente delle persone neutrali, le persone che vediamo ma che non conosciamo, come per esempio i nostri vicini. Turn now that stream of goodwill towards ourselves. Adesso rivolgiamo questo flusso di benevolenza verso noi stessi. And into the heart of goodwill, someone we find difficult. E nel cuore della benevolenza mettiamo una persona che troviamo difficile. And beginning to radiate outwards, first of all, to each other. Cominciamo a irradiare verso l'esterno, innanzitutto verso gli altri in questa stanza. To our neighbors, and we can relocate to where we live. Verso i nostri vicini, e noi possiamo immaginarci il luogo in cui viviamo. for all the people in our country. Tutte le persone nella nostra nazione. To all the peoples of Europe. Tutti i popoli dell'Europa. All people on earth. Tutte le persone nel mondo. Finally, to all beings in all directions. E infine a tutti gli esseri in tutte le direzioni. And we draw our metta to a close with the chant Sabbe Satta Sukhita Hontu, which means may all beings be happy. Quindi concludiamo questa sessione di metta con le parole Sabbe Satta Sukhita Hontu, che significa che possano tutti gli esseri essere felici. And then sadhu, sadhu, sadhu. E infine sadhu, sadhu, sadhu. Sabbe Satta Sukhita Hontu. Sabbe Satta Sukhita Hontu. Sabbe Satta Sukhita Hontu. Sadhu, sadhu, sadhu. So now it's time to go to bed. Adesso è ora di andare a letto. And we must get rid of any sense of hierarchy. E dobbiamo liberarci da qualsiasi senso della gerarchia. Sitting is more important than walking, more important than brushing my teeth. Che la seduta è più importante della camminata, che è più importante del lavarsi i denti. Everything is of equal importance. Tutto è di uguale importanza. About establishing mindfulness. Questo nel stabilizzare, nello sviluppare la consapevolezza. Mindfulness means being here in this present moment. Che la consapevolezza significa essere qui nel momento presente. So it doesn't matter what we're doing, that's what we're attentive to. Quindi non importa quello che stiamo facendo, è lì che noi rivolgiamo la nostra attenzione. Take your time. Prendetevi il vostro tempo. Relax. Rilassatevi. Rushing to bed. Affrettarsi nel letto. Ridiculous. È ridicolo. Brushing your teeth, take your time. Anche nel lavarvi i denti, fate con comodo. Prendetevi il tempo. Sì. Attention and care. Quindi attenzione e cura. Attention is where your mind is, care is where your heart is. L'attenzione è là dove è la vostra mente, la cura è là dove è il vostro cuore. Stay very sensitive to your body. Siate molto sensibili al corpo. When was the last time you tasted your toothpaste? Quando è stata l'ultima volta che avete gustato il vostro dentifricio? And when you finally become prone in bed? quando siete nella, nella posizione prona, nel letto, put the attention on the breath. Mettete la vostra attenzione sul respiro. But don't do it to inquire, because that will wake you up. Ma non fatelo per indagare, perché questo vi sveglierà. Do it more to get the feeling of its gentle, pleasant feelings. Fatelo più per avere questa sensazione di gentilezza, di piacevolezza. And if you find difficulty sleeping, try the metta. Se avete difficoltà a addormentarvi, provate la metta. Make it very simple. Fatela molto semplice. To yourself, one other person, and all beings. Quindi a voi stessi, ad un'altra persona e a tutti gli esseri. And make sure you have no problems with somebody else. E assicuratevi di non avere dei problemi con l'altra persona. Make the blessing very simple. May you be happy. E semplificate anche la benedizione, per esempio, che tu possa essere felice, è sufficiente. And make sure that at some time before you fall asleep, you make a world crashing decision to wake with the bell. E assicuratevi prima di addormentarvi di prendere una decisione di world crashing, insomma, che scoppiate il mondo, ma voi domattina vi sveglierete. And as soon as you hear the bell in the morning, you see, so begin hearing. Appena sentite la campana al mattino, iniziate udire. Intending to rise. Intenzione di alzarsi. As you hold the blanket, feel it. Mano che tirate sulla coperta, sentitela. Put your attention directly into the body. E mettete l'attenzione direttamente nel corpo. And take your time. E prendetevi il vostro tempo. Of course, if there are a lot of people using the facilities, then just be aware of that. Ovviamente se ci sono delle persone, tante persone che utilizzano, bisogna di usare i servizi, allora siatene consapevoli. Sleep peacefully. Dormite in pace.